Allora, eccoci qua, celluloide a Radio Rock, Gabriele Vasquez, buonasera di nuovo. Buonasera. Allora, ho visto Contagion. Io no, penso. Non ti perdi niente. Una bufala senza precedenti. Cioè, tutto il mondo sta per essere contagiato e sembra una cosa normale. E tutti se ne fregano? Non c'è tensione, niente. A me mi avevano detto che era tutto un modo diverso di guardare a questo genere di film. Boh. Probabilmente io che sono così, un sempliciotto, no? Non sono riuscito a percepire la poetica del cineasta. No, io non amo Soderbergh e non faccio fatica a immaginarmi che sia quello che mi dici tu. Dopodiché anche Super 8. No, anche Super 8 non ti ha convinto? No. Ah, invece no, quello a me è decisamente di più. Diciamo che tra E.T. e Super 8 vabbè, non è giusto però. No, un abisso di più. Vabbè, certo, sì. È come un filmetto di terza categoria proprio. Sono in certi momenti ci sono delle cose simili. Ma proprio quando ci sono le cose simili tu dici, sì, simile, ma siamo lontani però. Cioè, è più evidente quanto la distanza che ci sia tra i due film. Però comunque, nel complesso, Super 8 è un film carino. Niente di che. Vabbè, dopo queste mie due affermazioni. Ma questa settimana io prego al critico cinematografico. Ho un film che ti piacerà. Ah, per quale? Questa settimana esce L'alba del pianeta delle scimmie. Ah, e questo è il signor film. Veramente? Allora, mi devo fidare? Fidati. Vabbè. Allora, innanzitutto, questo film ha una particolarità. È un film, un grosso budget, un film molto importante di una major, mica un'operetta così. Ed è fatto da un emerito sconosciuto, da Robert Wyatt. Guardate che io che sono... Musicista? No, un omonimo. Ah. Anzi, scusami, ho sbagliato io. Rupert Wyatt. Ah. Mi sono confuso col musicista. Tant'è che io che sono un giornalista d'assalto che approfondisce, esatto, sono andato a dire, ma chi è questo, perché? Allora, mi sono documentato. Praticamente Rupert Wyatt aveva fatto prima solo un film che in Italia non è mai uscito, si è visto solo al Festival di Torino, che si chiama The Escapist. Cioè l'escapista, tradotto male, però insomma quello che fugge dal carcere. È un film di evasione inglese. E io me lo sono preso in DVD, me lo sono comprato in DVD e me lo sono visto prima di andare a vedere L'alba del pianeta delle scimmie. E ho capito perché hanno preso questo che aveva fatto un piccolo film a basso budget in Inghilterra e gli hanno fatto fare L'alba del pianeta delle perché? Scimmie. Perché? Perché L'alba del pianeta delle scimmie, sostanzialmente, nella sua seconda parte, è un film di fuga, perché le scimmie sono come in una prigione, cioè sono in un recinto e dovranno fuggire, ma tra di loro non parlano, benché per la trama già sapete comunque è un tipo di scimmia più evoluta, insomma più intelligente, però comunque tra di loro non comunicano, per cui quelle dinamiche che lui aveva così ben ritratto in The Escapist, di questi prigionieri, questi carcerati che tra di loro devono comunicarsi il piano per uscire parlando molto poco perché ci sono i secondini, perché insomma in una prigione non è semplice fare un piano di fuga, lui era stato talmente bravo che l'hanno preso per fargli fare un film dove appunto c'è della gente che deve scappare e non si può parlare, non si possono parlare tra di loro. E questa cosa in effetti funziona molto. Cioè L'alba del pianeta delle scimmie, secondo me, un pochettino arranca nella prima parte, ma nella seconda, quando comincia proprio, quando comincia a pompare per bene, va veramente alla grande, è un bel film, è proprio, mi ha lasciato soddisfatto, molto. Allora, rispondo, il brano di cui molti mi stanno chiedendo era dei Beirut. Belli Beirut, sì. Ma non solo, ma non finisce qua. Un'altra cosa molto molto molto bella dell'alba del pianeta delle scimmie è che viene fatto un lavoro che non esito a definire artistico nel motion capture del protagonista. Cioè, la scimmia protagonista non è una scimmia, cioè non è che hanno preso una scimmia e l'hanno ammaestrata. È un attore, Andy Serkis si chiama, che ha recitato con una tutina tutta aderente e dei pallini in faccia, ha recitato tutti i ruoli sul set assieme a James Franco e agli altri attori, però appunto con questa tutina e con una piccola videocamera attaccata a un casco che gli riprendeva la faccia, cioè la telecamera attaccata al casco andava un pochino davanti al volto ed era puntata contro di lui. Tutto questo perché i suoi movimenti del volto, del corpo, di tutti i muscoli che erano attaccati ai sensori venivano catturati da un computer che immagazzinava i movimenti fatti per poi attribuirli al personaggio finto, al personaggio di sintesi, a quello digitale, che è la scimmia per l'appunto. Per cui il personaggio è finto, è una scimmia tra virgolette disegnata al computer, poi è perfetta, sembra vera, perfetta. ma ha i movimenti di un essere umano vero. Le fattezze anche, somaticamente no, parlando. Somaticamente no, somaticamente è proprio una scimmia. E questa è una tecnica non nuovissima, cioè la prima volta che è stata utilizzata è stata utilizzata per Gollum del Signore degli Anelli, quindi ormai 10 anni fa, ed era sempre Andy Serkis l'attore, cioè lui è proprio il pioniere, il più bravo in assoluto a fare questa cosa. Ha fatto il Gollum, ha fatto King Kong, ha fatto questo, poi farà, adesso farà Tenten un altro ruolo, e di nuovo Gollum nell'Hobbit che uscirà. Ma quando uscirà sto Hobbit? Voglia, l'anno prossimo. E insomma, siete davanti veramente a qualcosa di straordinario. Il team degli effetti speciali è quello di Avatar e sta avanti, da quel punto di vista sta avanti ad Avatar, dal punto di vista della creazione di un essere finto. Ma non è 3D. Vedrete, comunque non è 3D, solo da quel punto di vista del creare un essere finto. Vedrete, è pazzesco, anche perché, come dicevo, viene fatto un lavoro non tecnologico ma artistico. Cioè c'è questa scimmia che la trama più o meno è nota, cioè in un laboratorio si sperimenta una cura per l'Alzheimer, lo sperimentano sulle scimmie e scoprono che diventano più intelligenti. Una in particolare, che è figlia di una scimmia su cui avevano sperimentato, eredita nei propri geni questa intelligenza, quindi è proprio particolarmente intelligente. E la seguiamo da quando è molto piccola a quando è grande. E c'è questo progressivo, lungo tutto il film, questo progressivo alzarsi, raddrizzarsi della schiena della scimmia, simbolo di tutto il conquistare un altro livello di intelligenza. Darwin. Esatto, darwiniano. Che ma è reso alla grande, ma è veramente una grandissima performance. Mi sbilancio da Oscar come miglior attore, perché veramente è qualcosa di... E si vorrebbe attribuire l'Oscar a uno che fa... Guarda, secondo me si dovrebbe, in virtù del passo avanti che lui fa fare. Cioè questa cosa, quando capirete che questo video ufficialmente è un passo avanti nella recitazione, che è una cosa vecchia di millenni, forse la cosa più antica che esista. E questo è l'unica svolta nella storia della recitazione, cioè, ed è vera e funziona. Cioè è veramente un personaggio complesso, sfaccettato, ha una recitazione bellissima, stringe un rapporto con l'altro protagonista umano, cioè James Franco, che è molto bello. Insomma è veramente una grande, grande prestazione. Allora, l'altra sera mi sono rivisto The Wall in Blu-ray, ma quanto è bello! Poi, ennesima visione di A 30 secondi dalla fine, eppure riesco ad emozionarmi sempre. Il regista fu più di uno. No, fu Andrei Konchalovsky, ma si basava su una storia di Akira Kurosawa. Però era basato su una storia di Akira Kurosawa. Ah, quindi non sono più registi. No, era sempre Andrei Konchalovsky. Vabbè, ma andiamo avanti con altri film. Altri film. Allora, questa settimana esce... In realtà esce o non esce, questa è una storia un po' strana. Per Jam 20. Cioè questo documentario su Super Jam fatto da Cameron Crowe. Però è un'uscita strana, nel senso che è un'uscita che è andata un giorno solo, in contemporanea col Festival di Toronto, e non si riesce a capire bene se poi effettivamente nei cinema ci va. Io, per quanto ne so io personalmente, so che tra un po' sarà più facile vederlo, tra un mesetto, e non posso aggiungere altro. Però al momento non ho capito se sta uscendo o meno nelle sale. No, io ancora no. Però se io vi posso dire che se aspettate, sì, più o meno un mese, sarà facile vederlo. Sarà facile vederlo. Dove? Non posso andare. Ah, non puoi dire. No. Fatevi i vostri calcoli. Allora, Baciato dalla fortuna, al 30 settembre al cinema, l'hai veduto? No, ancora non l'ho veduto, credo che lo vedrò in settimana, il nuovo film con Salemme. Ancora niente. Alessandro Gassman, bravissimo attore. Mi piace tanto quell'attore lì. Gassman? Sì, sì, sì. Ma invece, scusa, questa settimana è uscito il nuovo film di Pedro Almodovar, che è il regista che fa... Io già vedo la tua faccia. Ah, La pelle che abito. Esatto. Il regista che fa film che a te solitamente non piacciono, sono sicuro, ero sicuro. Perché lui è molto sui melodrammoni, storie eccetera. Allora, personalmente la cosa che mi piace moltissimo di Almodovar è che lui proprio non si nasconde dietro un dito. Cioè lui fa quei film dove... Ma tu eri mio fratello e lui era tua madre e non lo sapevi. Tutti sono tutti così, hanno delle dinamiche, degli intrecci molto molto basilari, da Harmony, da libro Harmony, però fatti con una fattura da serie A, e questa è la sua grande particolarità. Questo è un film dell'orrore. Cioè lui ha fatto un film dell'orrore dove chiaramente è particolarissimo, dove non ci sta nulla di efferato, non schizza una goccia di sangue, dove non c'è nulla di mostruoso né di soprannaturale. Però io mi sono messo veramente paura. Addirittura. Sì, perché comunque tocca dei temi che a un certo punto uno si spaventa. Praticamente, che storia è? È una storia che alla lontana, se avete presente, ricorda un po' L'isola del dottor Moreau. che era quel film, anzi quel libro, che poi è diventato film, in cui delle persone finiscono su un'isola, in cui c'è questo chirurgo che domina tutta l'isola e fa degli incroci da uomini e animali. Opera, stacca arti. Ah, adesso ricordo, adesso ricordo, sì. Che era abbastanza terrorizzante. Qui Almodovar prende molte suggestioni diverse, appunto, un po' dell'isola del Dottor Moreau, un po' dei film di Hitchcock, un po' di Lang, fa un grande pastone, racconta la storia di questo chirurgo, per l'appunto, la cui moglie muore in un incidente, quindi già che questa stata già lo destabilizza, e la cui figlia viene violentata. Lui riesce a beccare il colpevole, cioè lo prende proprio lui, lo trova, se lo porta a casa, e qui mi devo fermare perché... Però calcolate che, insomma, lui è mezzo squilibrato, la moglie è morta, la figlia è stata violentata, si prende il colpevole, se lo porta a casa e comincia a operare. È veramente... Ma l'attore protagonista chi è? Antonio Banderas, che uno non direbbe mai... Che fa lo squarto? Fa il chirurgo molto... il chirurgo. Poi, tipico, no? Questi qui sono molto puliti e ordinati, cosa che ti mette ancora più paura. Sono tutti precisi, una cosa veramente terrificante. E non vi dico cosa non gli fa, però nulla di efferato. Cioè, non vi immaginate una cosa violenta, per nulla, veramente. È il terrore delle cose fatte precise, perfette. Alla fine veramente perfetto. E molto bravo Banderas, perché lui solitamente è uno molto azione, molto figo, gran fisico, bello, piace. Qui invece è proprio dimesso un po' gol. Un po' sfigato, un po' per dare quella dimensione. Un po' l'Alberto Sordi di... Bravo, Borghese Piccolo Piccolo. Borghese Piccolo Piccolo. Esattamente, c'è quell'idea del farsi giustizia da sola, ma in maniera borghese, assecondando le proprie ossessioni, e forse quasi andare più in là del torto che hai subito, certo. Esagerando. E insomma, io lo consiglio, anche se so che non è che è piaciuto molto agli altri, però a me è piaciuto. Quindi se avete una fiducia incrollabile in me, come sono sicuro che avete, non c'è dubbio, lo consiglio. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco, non andate via. Allora, eccoci di nuovo qui per parlare di cinema, cellulite e cellulite, e stiamo parlando di finalmente queste mozzarella stories. Prego. Non l'ho visto. No, però questa è proprio solo e unicamente colpa mia. Me ne voglio assumere tutte le responsabilità. Proprio il giorno che c'era l'anteprima, io non sono riuscito a incastrare con degli altri impegni e non ce l'ho fatta. Guarda, ma tu sei un giornalista. Sono pronto a subire cinematografico. Le conseguenze. Devi essere, cancella tutto. Ma avevo altri impegni cinematografici, capito? Che gente importante, ha interviste importanti. Ah, stavi a Milano? Stavo a Milano a fare, capito? Cioè... Chi ha intervistato? Ma la gente per strada. No, gente importantissima. Che adesso non sto qua. Vabbè. Scusa, invece, a proposito di interviste, che qui mica questa radio sta per tirare le bambole. Io oggi pomeriggio, ero a intervistare il regista del momento. Il regista del momento, il cui film esce settimana prossima da noi. Chi sarebbe? Che è Nicholas Winding Refn, regista di Drive. Ah, il film di cui parlavi. Drive esce settimana prossima. Ma come ne parli così tanto? Sei prezzolato per caso? In realtà sono particolarmente prezzolato, perché già anche gli altri mi pagano, però questi di più sono stati particolarmente generosi. Drive, allora, è un film... Praticamente prendi quel modo di guardare, di raccontare storie di gangster di Scorsese, la modernità di Tarantino con quel suo concetto di violenza, e fai girare un film così a un cineasta europeo, con tutta quella sensibilità europea. Viene fuori Drive, un film pazzesco su questo stuntman che fa gli stunt con le automobili nei film, e di notte lavora come autista per chi fa le rapine. Cioè, se io voglio fare una rapina, lo chiamo, lo pago, e lui per 10 minuti, questo è il suo tempo, per 10 minuti sta con me, mi viene a prendere fuori dalla rapina e mi porta dove mi deve portare, e mi garantisce che in quei 10 minuti nessuno mi prende. Come transporter. Più o meno, esatto, più o meno. Però la sua caratteristica è che non è che prende e va con la macchina a 1000 all'ora, no, lui va pianissimo. Però è tutto da vedere, è difficile spiegarlo a parole, però vedrete che è straordinario. Pianissimo, perché... come fa? No, pianissimo, però comunque non punta ad andare più veloce degli altri, punta a essere più furbo. E questa cosa già è tutto un altro livello. Lui è un personaggio particolarissimo, insomma, vedrete. Io oggi ho intervistato il regista, che è appunto questo danese, che ha fatto la trilogia di Pusher e poi ha fatto Bronson, e poi è stato subito portato in America perché... Poi farà La fuga di Logan, farà il remake della fuga di Logan. Ah, porca miseria. Sì, bellissimo, uno... film di fantascienza degli anni 80, forse 70 anche. 70. Uno stralanciato che ha vinto miglior regia a Cannes, il premio gliel'ha dato De Niro, gli ha detto: "Drive è uno dei migliori noir che io abbia mai visto nella mia vita". Questo è il parere di De Niro. E, insomma, vedrete, è un film molto bello. Lui è incredibile, perché lui è fa questi film sempre pieni di gangster e di violenza. Poi è astemio, non ha la patente, dislessico e cosa, non vede. Beh, siamo tutti un po' dislessici, cioè chi più chi meno. Lui non vede bene i colori, è daltonico. Pure. Cioè, ce l'ha tutte, ce l'ha, però. Ed è stato, se l'è vantato oggi, è stato con una sola ragazza in tutta la sua vita. Quanti anni ha? Ci avrà quasi 40. Cioè, con una sola. Sì, che è sua moglie. Ah, beh, cioè si è sposato. Sì. Cioè, come e me. Vedrete. No. Che ridio. No, perché è una cosa che è vera, ma mi diverte sempre ogni volta. E, insomma, vedrete che tipo, questo tipo assurdo, che film che gira. Insomma, è veramente una persona incredibile. Pensa che cosa assurda. Il padre, Andreas Refna, è il montatore di fiducia di Lars von Trier, che è l'unico altro grande regista uscito dalla Danimarca negli ultimi 20 anni. E lui raccontava, Refna raccontava, che mentre il padre montava Le onde del destino di von Trier nel 96, lui nella stanza accanto, in casa, nella stanza accanto, montava il suo primo film contemporaneamente. E niente, insomma, ne parleremo meglio settimana prossima. Però Drive sta arrivando e io faccio interviste così, cioè che ancora mi giocherò la settimana prossima. Ho letto dei rumors sulla possibilità sulla possibile trasposizione cinematografica di Akira e del videogame Halo. Ne sai niente? Allora, sì, Akira sono anni che si dice che gli americani devono fare un live action, ma ancora io non ho visto niente di concreto. Cioè, non ho visto teaser, foto, cast, niente. Su Halo a un certo punto doveva farlo Peter Jackson, ma si è bloccato tutto ed hanno fatto District 9 invece che Halo, perché doveva farlo proprio quel regista lì. Però invece hanno voluto dare la priorità a quel progetto di District 9. E non so se poi verrà ripreso Halo, è veramente, al momento non ci sono novità. Infatti sembra Gollum coi peli. Ma guarda, vedrete quanto siamo arrivati avanti. Cioè, vedrete che risultati, che idee. Insomma, veramente un film stupefacente. Va bene, ma come fai a far tutto? Allora, ma come fai a far tutto? È un film, questi film mi fanno morire. Allora, sono... Innanzitutto l'hai visto o te l'hanno raccontato? Ho letto il libro. No, allora, l'ho visto. Questa volta questo l'ho visto. Perché c'avevo 2 ore da perdere. Dai, entriamo in sala. Allora, ma come fai a far tutto? Dicevo, questi film mi fanno morire. Perché sono film della categoria... Innanzitutto già la categoria è stupenda ed è... Non è mai troppo tardi per amare. Questa è la categoria del film. Sono film indirizzati a un target ben preciso, che è signore tra i 40 e io mi spingerei a dire anche fino ai 60, che raccontano di, solitamente sono un po' tutti simili, raccontano di queste donne in contesti molto molto alto borghesi, molto, insomma, benestanti. Questo è già da Boston, che hanno un lavoro pieno di soddisfazioni, dove stanno a un alto livello e dove sono considerate bravissime, hanno una famiglia con i figli, il marito che l'ama, una vita perfetta, ma sono piene di problemi perché non riescono a far coincidere come vorrebbero lavoro e vita privata. Questi sono i problemi, da cui poi chiaramente sono delle commedie, quindi è fatto tutto in forma di commedia. E chiaramente poi nel lavoro incontrano un altro che è ancora più fico del marito, che in questo caso è il grandissimo Pierce Brosnan, che da quando ha smesso di essere Bond è diventato un caratterista, fa sempre quello in giacca, il capitano di una lira, insomma. No, però come caratterista secondo me è bravissimo, cioè a fare quello fico sul lavoro, capito? Quello col grande lavoro, bello, si leva gli occhiali e fa lo sguardo charmant. E, diciamo, incontra Pierce Brosnan, sembra innamorarsi ma forse no, la famiglia è più importante, ma soprattutto i figli. E niente, il film va via così. È un film boiata, a chi piace, insomma, cioè, evidentemente a me. Idem come il primo bacio, suppongo. Come il primo bacio qual è? Non cantiamo vittoria troppo presto. Potrei avere delle ottime motivazioni. No, ma questo non l'hanno fatto vedere a nessuno. Questo non l'hanno... Trovami uno che l'ha visto. Questo non l'hanno fatto vedere. Guarda, se io chiamo Boris. No, ma no, lascia stare Boris. Non chiamare Boris. Questo poi lui ha da fare, io lo so. Ha da fare. Sta qua, perché abbiamo una riunione più tardi. Ma ora sta in riunione, si sta concentrando. Questo non l'ha visto nessuno al primo bacio. Niente da dichiarare neanche. Niente da dichiarare? Neanche, ma subito sfiduciato. No, io ti aspettavo al varco. Vabbè. Niente da dichiarare. Niente da dichiarare, guarda, mo ti stupisco. È il nuovo film di Danny Boone. Danny Boone è quello che ha fatto Giù al Nord, cioè l'originale di Benvenuti al Sud. Ovviamente, quindi è un film francese. Che bello quel film. È veramente bello quel film. Lo stai rivedendo su Sky adesso? Perché io sto dicendo. No, io non ho ah, Sky. Okay. No. Che se lo stanno facendo in heavy rotation? No, me lo ricordo. È veramente. Poi quell'attore lì a me fa impazzire. No, quello italiano o quello francese? No, quello francese. Ah, ok. Danny Boone, è sempre lui, è regista e attore. Ah, è regista e attore. Esatto. Ha fatto quest'altro film che si chiama appunto Niente da dichiarare, ed è una storia di frontiera, cioè la frontiera tra Francia e Belgio. Questi due poliziotti che si confrontano sulle reciproche differenze. E chiaramente la storia non è troppo lontana da giù al nord. Comunque persone differenti che però in realtà sono simili, che scopriranno le loro similitudini. Ha puntato sul sicuro. Perché ricordiamolo, giù al nord è il più grande incasso della storia del cinema francese. Quindi comunque lui veniva da un successo senza confini e ha fatto un film. Beh, il film è bello, sì. Film, per carità, cioè, è assolutamente un film veramente che è intelligente, divertente. Si spiega facilmente come ha fatto quel successo, diciamo. E questo Niente da dichiarare è più o meno ravana da quelle parti. Però chiaramente non è a livello chiaro, come, questo è, però è normale, cioè non è una questione di quasi nessuno dopo aver fatto il proprio capolavoro al fin dopo riesce a essere a livello, non è possibile. Però insomma, questo comunque, se vi è piaciuto il giorno di a replicarsi. Ma scusa, invece io ho per te, tu me l'avevi chiesto la volta scorsa, io ammetto io non ero riuscito a risponderti a dovere. Io questa settimana ho saputo, perché è uscita la notizia ufficiale, il prossimo Cinepanettone come si chiama e dov'è. Ah, sono notizie. E stasera dormirò meglio. Esatto. Allora, sai che in questi ultimi anni, allora, i cinepanettoni, chiariamolo, vanno sempre bene. Cioè se vanno male fanno il quarto incasso dell'anno proprio, quindi potete capire che comunque vanno sempre bene. Però diciamo che rispetto ai loro standard erano un po' in calo negli ultimi 2-3 anni, non erano andati benissimo rispetto ai loro standard. Quest'anno si torna alla, capito, alla controriforma, alla radice, si torna alle basi del Rimini, Rimini. No, di più, le basi. Anzitutto il titolo è Vacanze di Natale. Proprio pa, capito? Cioè, sparato, esatto. Proprio. E l'ambientazione è Cortina. Le basi. I fondamentali. Magari riprendono i vecchi attori. No, ci sarà Christian De Sica. Porca miseria, me ne ero segnati tutti quanti, aspetta. Boldi? No. Boldi deve tornare, dai, Cortina, Boldi torna. Ma mi sa che nel primo, che ovviamente era Cortina, Boldi non c'era ancora. Era solamente Christian De Sica. Anche se poi c'erano, se non ricordo male, nel primo c'erano Ezio Greggio, Mario Brega, Claudio Amendola. Come si chiama quell'attore caratterista che fa sempre quello super ricco? Di una grandissimo certa età. Maurizio Nicheli, che faceva Zampetti nei ragazzi della terza C. Bellissimo. Milanese, no? Sì. Sì, straordinario. Quello era un vero dentista di Milano che i Vanzina avevano beccato per strada e che avevano convinto a fare i film con loro. Allora, Christian De Sica. E vai. Un'altra affezionatissima dei cinepanettoni che un po' che mancava, Sabrina Ferilli. Oh! Una new entry. Donna tutti i numeri. Una new entry, Ricky Memphis. Grandissimo attore, straordinario, eccellente attore. Dario Bandiera. Chi viene è? Da Zelig, comico. Si è visto, quando lo vedi dice ah, ok, l'ho visto. Ah, è questo. Quello là. Ivano Marescotti, che bisogna conoscerlo, però è un grandissimo caratterista del cinema italiano. E questo io leggo il comunicato stampa, quindi non è che possa condividere quello che leggo. No, direttamente dal successo di Zelig, le esilaranti Katia e Valeria, assieme a Giuseppe Giacobazzi, il grandissimo Giuseppe Giacobazzi. Questi sono. E chi ci sarà di contro? Perché poi che c'è un graditissimo, questo non l'avevo Aldo letto. Giovanni e Giacomo. No, non avevo letto fino alla fine, ma io sono un pazzo. Non Oddio avevo letto santo. Fino alla fine. La regia è di Neri Parenti, come si conviene dagli ultimi 6-7 anni. Ma la sceneggiatura è firmata, madonna, i fondamentali, da Neri Parenti, Carlo ed Enrico Vanzina. I fondamentali! Quelli originali! Sì! Ah, veramente siamo. Potrei quasi andarlo a vedere quest'anno, eh. Guarda, però io penso che farà il botto. Farà il botto quest'anno, potrebbe. Farà il botto. Forse lo andrò a vedere. E chi gli mettono contro? Che tu sappia. Al momento ancora non so se si misura Pieraccioni, se tocca Aldo Giovanni Giacomo, questo ancora non lo so. Ma Pieraccioni è pronto? Non lo so se sta girando o meno, questa cosa la ignoro. Vediamo, forse c'è qualche notizia, forse già c'è. Niente, devo imboccarti su tutto. Però io poi vengo la volta dopo dicendo: guarda cosa ho pensato. Certo. No, ancora non si sa. Cioè, sicuro ci sarà Sherlock Holmes, però non è tra gli italiani, chiaramente. No, no, no. E sicuro ci sarà, che comunque sempre tra gli stranieri che possono levargli terreno, Il gatto con gli stivali, che sarà una grande produzione animata. Italiana? Pubblico. No, no, no, no, sempre straniera. E ci sarà il Hugo Cabret, che è il nuovo film di Martin Scorsese in 3D. Sarà una cosa pure quella strana, strana, che potrebbe fare trama è di fantasia, non è nulla di quello che ha fatto Scorsese finora. È un film di fantasia con protagonista dei bambini, è una cosa strana. Ah, quindi natalizio. Sì, esatto. Infatti sono molto curioso di vedere. Voglio vedere se riesce a non far uscire neanche una goccia di sangue. Non ci credo. Senti, invece c'è un'altra questa settimana, solo notizie. Solo, ma è solo... possibile che Io uccido ancora non esce? Che film è? Io uccido ancora? Ah, ok, scusami, no, Io uccido dal libro di Faletti. No, ancora no. Ci sta lavorando Davide Ferrari alla sceneggiatura, ma deve ancora uscire. Anche se in effetti è previsto per il 2011, io non credo che ce la fanno. Arriva il colpo basso, preparati. Ecco, lo sapevo io. Alo, due punti, cerca Portal su siamogic.com. Pare che se ne occuperà Trachtenberg. Ciao dal Pini nel traffico. Mappa 1. Non era facile leggerlo. Ah, però qui Portal pare che sia un cortometraggio. Attenzione, io mi occupo di film per la sala. Cortometraggio su Portal. Poi, visto che siamo in tema di domande, ma tu hai info sul film di... Ah, ma scusa, ho capito. Portal è un corto che io già avevo visto, adesso vedendo la foto l'ho riconosciuto. E da quel corto potrebbero fare Halo, ma insomma non è detto. Ho capito perfettamente. Rispondi a questa. Tu hai info sul film di Warhammer 40.000? Sono domande difficilissime. Comunque no, non ce l'ho. No, vabbè, non ce l'ho. Allora, non ce l'ho. Soldi, 40.000, è sicuro, non sbagliamo il numero. No, 40.000. So che ne è uscito uno. Ma di che cosa state parlando? Viene da un videogioco. E so che ne hanno fatto un film. Scusa un secondo. No, tra l'altro, aspetta, mettiamo una pausa perché devo correggerti il microfono che fa un disastro. Comunque, ne hanno fatto un film in America, ma non è ancora uscito in Italia. Questa era la questione. Eccoci qua di nuovo, prova il microfono ora. Prova. Mamma mia. Meno male che l'hai messo a posto. È altissimo. Vabbè, noi ce ne andiamo così senza un vero perché. Ringraziamo tutti qualche minuto prima perché abbiamo degli impegni redazionali oggi. Beh, quando ce ne sono gli impegni. Se hai altre cose da aggiungere, possiamo aggiungere. Posso dire che è successa una cosa molto curiosa in America. È uscito Il Re Leone, il vecchio film del 94, sì, del 94 animato della Disney. L'hanno rimesso al cinema in 3D. Primo nel box office. Primo. Ma pao. Battendo Contagion e tu ne sarai lieto. Contagion. Mentre invece da noi trionfano i Puffi e secondo Polanski. Ricordiamoci 14-10. Data. Cowboy and Aliens. Data. Faremo il gruppone? Possiamo fare il gruppone. Facciamo il gruppone? Sì. Cominciamo a attivarci? Ma sala solo per noi? È salato per noi. Posso provarci? Aspetta, fammi vedere subito chi è, perché dipende da chi è che gestisce. No, perché c'è. Vabbè. No. Vabbè. Forse sì. Io chiamo Boris, parlo con Boris. Ah. Forse sì. Non schiaffo morale, parlo con Boris. Vabbè, se la mette così la compro io la sala e poi dico: ma sì, ho alzato il telefono. Si può provare. Sala solo per gli ascoltatori? Però dobbiamo cominciare subito a raccogliere il numero sufficiente, perché se apriamo no, subito una pagina su Facebook. Certo. Cominciamo subito. Deve essere un filmone quello lì, eh. Speriamo. Che deve essere se no, un filmone. Nella sala solo per noi ci menano proprio, perché si è tutta chiusa, capito? Non possiamo fare come con Macete, che ci siamo confusi con gli altri all'uscita e siamo scappati. Certo. Vediamo se ci sono altre domande, altrimenti ce ne andiamo, che di là aspettano tutti. Aspettano me, sai. Immagino, ma tu. Ma lasciali attendere. No, veramente già hanno iniziato. Chi se ne frega. Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo lunedì pomeriggio, stessa frequenza, stessa radio. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola cade in sugo. Vasquez, noi venerdì prossimo ci vediamo o no? No. Sai perché? Perché io mi hanno invitato in un festival prestigiosissimo che è il Ciociaria Film Festival, che si tiene a Frosinone. Mi ci hanno invitato e io, che sono sensibile a quando mi invitano, mi offrono pagato, vitto e alloggio. Esatto, sono molto sensibile a queste cose. Ho detto: sapete che c'è? Ve lo concedo, verrò. Ci sono delle anteprime? No, ma potrò fare delle interviste in esclusiva. Interviste esclusive, capito? Del personaggi. Tra l'altro dovrei intervistare in esclusiva anche Morricone. Se hai delle domande, Ennio. Te le scrivo in settimana. Mi scrivi le domande in settimana, gliele pongo da parte tua. Ben volentieri. Bene. Grazie Vasquez, grazie a tutti e a tutti e buon resto di Radio Rock. Faremo un'altra, mi ha dato questa idea, faremo un'altra cosa. Sulla tua e sulla mia bacheca di Facebook raccogliamo domande per Morricone, curiosità, che poi registro. Lui è uno schivo, uno molto schivo. Sì, lo so, lui mena proprio, non è che schivo. Sì. L'ho detto a voi che mi frega, ci vado io a piai cazzotti. Appunto. Grazie a tutti e a tutti, a lunedì.